pensa quando lo sai, tutto quanto si attacca nel tuo pensare sano. Tutto il mondo che ti appare strano dipende dalle tue distanze, dalle tue. Ogni cosa che prendi, un biglietto che compri, ogni cosa che giusti puntualmente la rompi, ogni cosa che vinci, gira grattalo perdi, torni indietro e rinunci, ma non è troppo tardi. Crociera nello spazio diversa, certo dai confini che vorrai. Al tuo universo non dai gradi in più che toglierai. Quello che lanci in alto volo riafferri, tutto quello che al buio metti a fuoco ed accendi, ogni cosa che brucia va per terra e raccogli, manca sale e coraggio ma non fai tanti sbagli. Danzi sulla crosta di un vulcano e attendi che il vento si arrenda. Sono lunghi digiuni dei tuoi sogni fingordi.